Non dormo mai per pigrizia. Ma solo per vivere il mondo che vorrei. Perché io lo so, e lo sai anche tu. L'unica cosa che so fare è quella sbagliata.